10. Ascolta e controlla. 1. Per piacere, posso avere qualcosa da bere? 2. Gli studenti escono dall'università alla fine della lezione. 3. In inverno c'è spesso la neve sulle montagne. 4. Vado con i miei amici al ristorante per pranzare. 5. Di chi sono queste penne? Non sono mie, sono dello studente che viene da New York. 6. L'ufficio è aperto al pubblico dalla mattina alla sera. 7. I tuoi amici sono in Italia? Sì. Sono nella loro casa di campagna. 8. Roberta mette il suo libro sullo scaffale della libreria. 9. Non abbiamo nulla di speciale da leggere in questi giorni.